Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che nei prossimi anni ci sarà un calo generalizzato di tutti gli utili aziendali e in particolare delle aziende dell'economia reale? Fra il 1980 e il 2013 abbiamo assistito alle vacche più grasse di tutta la storia dell'umanità. È stato il periodo della storia dell'umanità in cui le aziende hanno guadagnato di più. Ora si torna a guadagnare di meno, si torna a dieta, si torna al periodo della magrezza. Chi lo dice? Lo dice la McKinsey, che ha fatto un lungo articolo ricerca sul McKinsey Quarterly, firmato da Richard Dobbs, Tim Collor e Sri Ramsway, che afferma, avendo passato al setaccio diverse decine di migliaia di bilanci aziendali, che ci sarà questa contrazione degli utili, spiega perché ci sarà e soprattutto spiega che cosa fare. Cosa molto importante per le nostre imprese, perché anche loro hanno goduto di queste vacche grasse che finiranno. Ci sono però alcune strategie, alcuni percorsi strategici che permettono di volgere i nuovi trend dell'economia globale a proprio vantaggio. Anzi, alcune aziende significanti, molto specializzate, con alcune caratteristiche, possono trarre beneficio da questo calo generalizzato degli utili che investirà tutta l'economia occidentale. Ne parliamo oggi con due ospiti esperti di economia reale ed esperti di piccole e medie aziende italiane. Sono il dottor Stefano Di Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Che è economista d'impresa e senior partner della compagnia finanziaria e un banchiere d'affari che con queste situazioni ha spesso a che fare. E il professor Carlo Bagnoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Uno dei massimi esperti di innovazione d'impresa. E proprio la capacità di essere imprese innovative è quella che permette di far fronte al calo degli utili. Ma permettetemi di spiegare un attimo qual è questa tesi della McKinsey, che è stata prima pubblicata sul McKinsey Quarterly e poi sull'Harvard Business Review e anche sulla Harvard Business Review edizione italiana. Questo articolo è pazzesco perché è una specie di roadmap dell'economia aziendale globale e io mi permetto di consigliarlo a tutti. Dicono questi della McKinsey che fino al 2013 sono aumentati i ricavi e i profitti delle aziende perché c'è stato un concorso globale di situazioni che ha consentito alle aziende di guadagnare quanto mai nella storia, e cioè la deregulation, le privatizzazioni a livello mondiale, praticamente tutti i governi hanno privatizzato, un'elevata automazione, un'elevata digitalizzazione, una riduzione del costo del lavoro a causa della delocalizzazione e un ampliamento incredibile dei mercati di sbocco finali delle aziende, perché l'Asia, il Brasile e altri mercati sono diventati posti in cui vendere le proprie merci. Quindi si è creata una nuova generazione di consumatori e contemporaneamente a tutto questo, in tutto il mondo occidentale, che se ne dica, la tassazione d'impresa si è dimezzata. Tutto questo ha fatto sì che nel 1980 c'erano 2 trilioni di profitti totali delle aziende e nel 2013 i 2 trilioni, cioè 2.000 miliardi di dollari, sono diventati 7,2 trilioni, cioè si sono quasi quadruplicati. I profitti delle aziende nel 1980 erano 7,6% del PIL mondiale, nel 2013 sono diventati il 9,8% del PIL mondiale. Però la McKinsey dice anche che la cuccagna è finita, le aziende torneranno a guadagnare poco. Perché? Per 2 motivi. Il primo motivo è che nei paesi in via di sviluppo si sono creati delle colossi e delle multinazionali che competeranno con le nostre aziende. Non è più vero che i cinesi fanno la parte a basso valore aggiunto o i brasiliani producono solo per il mercato locale. Ci sono multinazionali cinese e brasiliane che faranno molta concorrenza alla nostra multinazionali, che quindi saranno costrette ad abbassare i loro prezzi, ad abbassare gli utili. E poi perché internet, disabilitando una serie di intermediari e permettendo alle aziende che sono alla fine della catena del valore di competere con fenomeni tipo Airbnb e altro, alla fine, creando una concorrenza più perfetta, abbassa gli utili. Dunque, lo scenario è questo, uno scenario molto difficile. Lei che cosa ne pensa di Tommaso? Penso che potrebbe essere una buona opportunità per l'Italia questa. Ah sì, come mai? Noi abbiamo un territorio caratterizzato da piccole e medie imprese, distretti che collaborano molto tra di loro, aziende che hanno molta vocazione verso l'estero, soprattutto nel nord Italia. E quindi questo nuovo paradigma forse ci può aiutare. Ci può aiutare perché noi, grazie a internet, possiamo vendere i nostri prodotti in tutto il mondo e grazie a cose come la stampa 3D possiamo anche superare un po' quello che era il limite dell'economia di scala. Esatto. L'Italia era rimasta molto indietro sulla crescita dimensionale e sulle sinergie delle economie di scala che hanno caratterizzato le multinazionali che fino ad oggi hanno fatto il bello e cattivo tempo. In particolare l'Italia non è riuscita a cavalcare la globalizzazione come altri paesi hanno fatto, soprattutto quelli anglosassoni. La nuova era potrebbe permetterci un rilancio. Ecco, lei dice che c'è un nuovo paradigma di produzione e di consumi. Assolutamente. Beh, innanzitutto cambia il volto del consumatore medio. Il consumatore medio assomiglia sempre più a quello dei paesi emergenti e quindi rifuggono più degli altri dagli status symbol, sono in crescita numerica ma tendono a spendere meno e cominciano a preferire prodotti etici e a chilometri zero. E perché dovrebbero preferire quelli delle aziende italiane? Beh, l'Italia ha tanto da dire innanzitutto sul food, ma poi soprattutto l'Italia non è riuscita a creare dei colossi multinazionali che hanno fatto il bello e cattivo tempo e di conseguenza non ha cavalcato quella parte lì dell'ondata di globalizzazione. Forse la nuova ondata può essere più utile. Lei che cosa ne pensa, professor Bagnoli? Sono assolutamente d'accordo perché l'articolo che lei cita parla appunto, fa riferimento alle multinazionali di cui in Italia ne abbiamo pochissime, l'unico vero champion probabilmente a livello mondiale credo sia Luxottica, cioè il numero uno nel suo settore, e quindi fa ragionamenti sulle multinazionali occidentali che appunto soffriranno la concorrenza delle multinazionali asiatiche e dei piccoli, in qualche modo piccole imprese che potranno sfruttare tutto il ragionamento, tutto il canale di internet. In questo senso noi, nel fatto che le multinazionali occidentali siano messe in tra virgolette pericolo da quelle asiatiche, è un problema che non ci interessa. Il fatto invece di poter essere dei nuovi player sfruttando in qualche modo la rete internet, in primis, ma con tutto il ragionamento che in realtà passa dal concetto di produzione di massa dell'economia di scala di cui parlava appunto l'altro ospite, ha la produzione delle masse, quindi che i singoli addirittura come estremizzazione vanno a produrre per se stessi, ma da cui anche Uber, se volete, anche Airbnb, sono fenomeni di produzione delle masse. Beh, noi avendo realtà di dimensioni molto più piccole, però caratterizzate da una proposta che potrebbe diventare universale proprio in quanto unica, credo che possiamo solo beneficiare. Se avremo la capacità, l'articolo anche parla appunto della necessità di cambiare le regole del gioco, avremo la necessità, la capacità, la velocità, stante appunto la dimensione ridotta, di riuscire a cambiare le regole del gioco, come hanno fatto Uber, come ha fatto Airbnb, come hanno fatto tutti gli altri fenomeni che stanno esplodendo in questo momento e che non fanno più leva sul tema dell'economia di scala. Anche perché la McKinsey che cosa dice? Dice, certo, gli utili aziendali nella media, attenzione, nella media, crolleranno, ma aumenterà moltissimo anche il PIL mondiale, che aumenterà da qui al 2025 del 40%. Quindi, siccome ci sono queste masse di consumatori che entrano nel mercato, potrebbero essere un ottimo sbocco per le merci dell'economia, prodotti dall'economia reale italiana, dalla meccanica, dall'alimentare, da vari altri settori, no, dottor Di Tommaso? Sono d'accordo. L'economia reale, peraltro, si divide in due tronconi a questo punto. Quelle imprese dell'economia reale che riescono a cavalcare l'ondata di innovazione tecnologica e quelle che non ci riescono. La differenza di valore tra le due è abissale, ma quelle che ci riescono evidentemente riescono a godere di un distretto mondiale di collaborazioni che può essere molto utile per riuscire a vincere la concorrenza e soprattutto a spedire i propri prodotti in giro per il mondo. le nuove imprese dell'economia reale hanno rassomigliano sempre di più a quelle asiatiche emergenti, e cioè sono pronte a qualsiasi cosa, sono molto destrutturate e sono molto attive nel cercare di raccogliere un'importante quota di mercato nella loro specifica nicchia, e si caratterizzano per un'elevata frammentazione verticale. La frammentazione verticale della produzione è un elemento che riduce la necessità di grandi dimensioni aziendali e che permette ugualmente di essere molto aggressivi. Certamente, comunque, per completare quelli che sono i dati della McKinsey, la McKinsey dice: nel 1980 gli utili delle imprese erano il 7,6% del PIL mondiale, nel 2013 erano 9,8% del PIL mondiale, nel 2025 erano il 7,9%. Ecco, ma in questo scenario, Bagnoli, quali sono le imprese che ce la fanno? Le imprese che in qualche modo riusciranno a fare proposte uniche, pur riuscendo a portarle a livello universale. Parlavamo prima dei mercati che si aprono, facciamo questo ragionamento, parliamo della Cina. La Cina non è il consumatore cinese che sta in qualche modo elevando il proprio status, non è abituato a bere caffè. Allora cosa succede? Che non può un'impresa piccola, tra virgolette, pur essendo di qualche centinaia di milioni di fatturato, tipo Illy, portare l'educazione del caffè in Cina, lo deve fare una grande multinazionale, e quindi Starbucks inizia a aprire i suoi bar e a proporre il caffè al consumatore cinese. Ma nel momento in cui il consumatore cinese inizia a essere educato su questi prodotti, posso parlare di caffè, ma si potrebbe parlare di vino, di tutto il food di cui parlavamo prima, allora sì che andrà a cercare il prodotto unico, non andrà più a cercare il prodotto di massa per le masse, ma andrà a cercare, avendo raffinato la propria educazione e il proprio gusto, il prodotto unico. Ed è lì che imprese come Illy, ma anche imprese più piccole, imprese di torrefazione di caffè ancora più piccole, possono trovare degli spazi, delle nicchie molto interessanti attraverso le loro proposte, che ribadisco, essendo comunque il mondo, il mercato di riferimento, per quanto nicchia, possono essere dei mercati per noi assolutamente interessanti. Quindi io credo che la possibilità di riuscire a sfruttare questa nuova, tra virgolette, momento della globalizzazione, in cui appunto anche nei paesi emergenti si stanno riaffermando si stanno in qualche modo educando a degli stili di vita più vicini a quelli occidentali, apprezzando in qualche modo appunto prodotti alimentari, ma non solo, il fashion, tutto il tema dell'arredo, in cui l'Italia può giocare una parte importante, credo sia una grandissima opportunità. Il vero tema è, riuscire a far sì che le nostre imprese siano ancora più aperte a questi mercati. Il vero tema è riuscire a passare quelle che sono le debolezze classiche delle nostre imprese, che è un tema di sottocapitalizzazione, un tema di concentrarsi spesso più sul prodotto che sul mercato, che è un tema, ahimè, di non lasciare spazio ai giovani, facendoli crescere anche come manager all'interno delle proprie imprese. E certamente il problema vero è che l'Italia resta ancora un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Ma di questo ne parleremo dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Stefano Di Tommaso e Carlo Bagnoli di un tema che è stato sollevato alla discussione mondiale dalla McKinsey, e cioè: sono finite le vacche grasse dei profitti aziendali. Nella media, nei prossimi 20 anni, le aziende guadagneranno di meno, soprattutto quelle dell'economia reale, perché la finanza è un altro discorso. Abbiamo spiegato prima i motivi, ora spieghiamo che cosa fare per contrastare questa diminuzione globale degli utili aziendali che ci sarà. Ecco, che cosa fare, professor Bagnoli? Ribadisco però, attenzione, è una diminuzione di utili per le multinazionali più che per le nostre imprese. No, per tutte le aziende del mondo, di cui le multinazionali contribuiscono alla media, però la stessa McKinsey dice, come diceva lei, che grazie a internet si possono aprire delle nicchie nelle quali le piccole e medie imprese possono anche andare meglio. Però i dati che loro danno a livello di numeri è una media mondiale. Sì, in realtà dicono anche che, dovrebbero crescere i profitti in assoluto. Quindi, Come percentuale diminuiscono, come valore assoluto aumentano. Allora, crescono. Esatto, in questa crescita comunque le nostre imprese devono riuscire a ritagliarsi uno spazio di mercato che possono assolutamente conquistare. Le faccio alcuni casi, secondo me. Ma ci faccia i casi che interessano sempre i nostri ascoltatori. Non so, cioè ad esempio facciamo un caso di un'azienda, si chiama Unox, questa è un'azienda che produce forni professionali, in poco più di 15 anni ha raggiunto un fatturato di quasi 100 milioni di euro, quindi una crescita anche abbastanza importante. Il leader mondiale su queste tipologie di forni professionali è un tedesco, chiaramente. Quando gli incontrai la prima volta, la provocazione, o meglio, gli chiesi come mai si chiamano Unox, un po' la risposta, forse provocatoria, fu: beh, cerchiamo un nome che non ricordi che siamo italiani, perché vogliamo dare l'idea di affidabilità, di tecnologia, che però è propria dei tedeschi, della Germania. Io mi ricordo che all'epoca dissi: mi sembra che un'azienda che lavora nella filiera alimentare, che non sfrutti l'italianità, perché la tecnologia non può essere un fine, ma deve essere un mezzo, e quindi il fine fondamentalmente è la cottura del cibo, e quindi ci spostiamo su un tema invece in cui l'Italia può dire qualcosa, ma addirittura sul fatto di soddisfare un po' le aspirazioni dei nuovi chef, con tutto il tema, in qualche modo, il nuovo ruolo sociale che sta avendo gli chef, ho detto mi sembra in qualche modo bizzarro. Su questo abbiamo iniziato a incontrarci, a discutere, e presenteremo, loro presenteranno un nuovo piano di sviluppo che invece di cercare di inseguire appunto il numero uno al mondo, che è 3-4 volte più grande, tenteranno di ribaltare le regole del gioco, rompere le regole del gioco, ma come appunto dice il report di McKinsey, per riuscire a costruire un nuovo mercato. Diciamo che nel loro caso è un'azienda italiana che abbina sia la creatività, la flessibilità, l'agilità italiana, però anche in qualche modo alla, come posso dire, precisione, affidabilità e capacità di investire, di scaricare a terra i progetti che invece molte aziende italiane non hanno. È sicuramente un caso molto importante, l'abbiamo discusso più volte, ed è un'azienda con EBITDA tra l'altro impressionanti. Ma invece lei di Tommaso che cosa ne pensa? Cosa devono fare le aziende italiane per cavalcare bene questo trend a loro favore? Beh, io sono assolutamente d'accordo col professor Bagnoli sul fatto che piccolo non è bello, cioè è vero che questa rivoluzione non premierà le grandi multinazionali e quindi potrebbe dare una spinta in più alle imprese nazionali, però è anche vero che bisogna riuscire a raggiungere tutti i mercati che è possibile servire, e quindi che la variabile distributiva, che sia essa internet o che sia essa fisica come Starbucks che apre in Cina, resta fondamentale. Bisogna investire, bisogna riuscire comunque a cavalcare la velocità, il cambiamento degli umori del consumatore, raggiungere i mercati meno serviti, ricombinare le tecnologie. Ecco, lei si aspetta che aumenteranno anche gli M&A? Assolutamente sì. Gli M&A non potranno che continuare a crescere per due grandi motivi. Il primo è che le imprese grandi hanno bisogno di nuova linfa attraverso l'acquisto di piccole imprese che hanno reinventato il loro settore. E su questo c'è tanto da dire. E il secondo motivo è quello che le piccole imprese che crescono, che hanno avuto successo, che hanno fatto un pezzo di strada da sole, possono continuare a correre sempre meno col supporto di banche e istituzioni finanziarie e sempre più con il supporto del capitale delle grandi imprese. Il venture capital del prossimo futuro è quello industriale. Parliamone un attimo di questo venture capital industriale. Qua siamo a Fabbrica 2.4, siamo proprio in tema. Mi dica qualcosa di più. Allora, se parliamo di venture capital, evidentemente parliamo di cose estremamente innovative, ma il tema riguarda un po' tutta l'industria, nel senso che tantissime imprese italiane sono riuscite a fare delle cose molto singolari e particolari. A un certo punto diventano oggetto di interesse delle grandi multinazionali, quantomeno per questo aspetto qui, per poter replicare un modello vincente in giro per il mondo. Ecco, quindi gli imprenditori italiani che ci ascoltano, e sono molti, sappiano che uno dei loro destini può essere quello di cedere il capitale a una multinazionale che così acquisisce competenze di nicchia, che proprio in questo panorama sono sempre più importanti. Cosa dice la McKinsey alle piccole e medie imprese in questo scenario? Che cosa devono fare? La McKinsey dice 5 punti. Primo, investire nel capitale intellettuale per essere più competitive, il che vuol dire sia prendere gente di talento e sia strutturarsi all'interno per organizzare e codificare il proprio capitale intellettuale. 2. che potrebbe essere un sottopunto del primo, andare alla guerra per i talenti, pagare di più le persone e attrarre le migliori. Tra l'altro la McKinsey dice che mentre prima ciò non avveniva, anche in Brasile, in Cina, in altri paesi emergenti, le multinazionali vanno alla guerra per i talenti e assumono persone occidentali di talento oppure fanno crescere i talenti nei loro paesi. Io ho personalmente dei conoscenti che lavoravano alla Ericsson come alti dirigenti e hanno avuto lo stipendio raddoppiato da una multinazionale cinese. 3. Cercare un capitale paziente disponibile a investire a lungo termine. 4. Essere paranoici, quindi guardare con attenzione a tutte le insidie. 5. Rivoluzionarsi in modo radicale, quindi anche cambiare totalmente l'oggetto del proprio business. A me a questo proposito viene in mente il caso della ERG, che è stata nostro ospite a gennaio. E che cosa ha fatto la ERG? Ha fatto una rivoluzione radicale, ha venduto le raffinerie, ha preso 3 miliardi di euro e li ha spesi tutti nell'eolico, cambiando il proprio business da un momento all'altro. Ecco, che cosa ne pensa lei Bagnoli? Uno può in questo mondo anche decidere che prima faceva una cosa e poi ne conviene fare un'altra totalmente diversa? Più che può, purtroppo siamo portati a dover in qualche modo ripensare totalmente al nostro business, alcune volte cambiando totalmente la industria, altre volte ripensando a modi diversi per dare lo stesso servizio, lo stesso prodotto. Le faccio un esempio, lei Ecco. Sempre esempi, questa volta di un'azienda non veneta, perché sennò mi dice che faccio solo aziende venete e faccio il partigiano. Le parlo di una bellissima esperienza della poligrafica Roggero e Torti, che è un'azienda piemontese, che è interessante perché una poligrafica è sostanzialmente un business molto tradizionale. La cosa divertente è che loro hanno messo in piedi un servizio in cui una persona può spedire delle buste, quindi cartacee, ma direttamente dal proprio PC. E questa è una cosa bellissima, perché sa chi è il loro primo cliente? Chi? Google. Ma va? Google è il principale speditore, non so se si dica così, di poste, di posta cartacea. Questo è bellissimo perché in qualche modo dà l'idea di come quella che è l'azienda che per definizione ha prima azienda per capitalizzazione in questo momento, sta giocando sempre con Apple, che fa della smaterializzazione del digitale evidentemente il cavallo di battaglia, poi molte bollette, molti avvisi li consegna ancora in carta e usa appunto questo servizio messo a disposizione anche da questa azienda italiana che sta avendo un grande successo pur essendo in business molto tradizionali. Il vero tema è che non esistono business maturi, esistono strategie di impresa matura. Quindi nel momento in cui si dice il nostro settore è maturo, siamo totalmente fuori strada. È il modo con cui si affronta la competizione che è ad essere matura. E questa azienda, a questo punto poligrafico piemontese, la Roggero e Tortia, spiegano come si possa cambiare anche in un interessantissimo, merita una puntata. Una industria precedente, la poligrafica San Faustino, quotata nell'era di internet in borsa, sì? A cifre folli. E poi? E poi è andata molto bene nonostante tutto. Se c'era qualcosa di old economy era proprio la stampa. Ebbene, questa impresa ha cavalcato l'era della new economy in maniera formidabile. Senta, lei di Tommaso dice che c'è anche un ritorno di importanza dei mercati finanziari anche per l'economia reale. Assolutamente sì. Non so se sia un bene, però è un dato di fatto. Il mercato finanziario è il nuovo protagonista. Controllo delle risorse, ma soprattutto il controllo dei valori azionari. Cioè, noi oggi assistiamo ai cosiddetti unicorni. Le imprese tecnologiche, molto spesso start-up, sono poco più che delle community che capitalizzano più di $1 miliardo. Sono chiamate così quelle che superano il miliardo, che riescono a esprimere moltiplicatori infiniti degli utili che non si sa se faranno mai. Ma c'è un motivo logico, il mercato non è folle, il mercato investe in queste attività perché in un'era di grande stabilizzazione e riduzione dei margini sui settori tradizionali, chi è incapace di ridefinire un industry ottiene un grande risultato. Ecco, devo purtroppo interrompere qui la conversazione perché il tempo è tiranno, ma sicuramente Stefano Di Tommaso e Carlo Bagnoli saranno ancora nostri ospiti per discutere di questi argomenti. Arrivederci professor Bagnoli. Arrivederci a voi. Arrivederci dottor Di Tommaso. Grazie, arrivederci. Domenica parliamo di robot.